Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. I consumi di energia dell'Italia sono tornati indietro di quasi 20 anni. Consumiamo quanto nel 94-95. Potrebbe essere in realtà un'ottima notizia se questi numeri dipendessero dalla capacità del Paese di mettere in atto politiche di efficienza energetica efficaci, in grado di rendere più competitive le nostre produzioni industriali, di abbattere la bolletta delle famiglie e il consumo di energia nei trasporti. Invece buona parte di questa riduzione dipende dalla crisi economica. Molte fabbriche hanno chiuso, quelle rimaste spesso lavorano a ritmi ridotti e quindi si consuma, va da sé, meno energia. Ormai, tra l'altro, il miglioramento dell'efficienza energetica, per la verità, dopo una lunghissima estenuante battaglia, è entrato a far parte degli obiettivi strategici dell'Unione Europea. Abbiamo anche degli obblighi in merito. Unione che però si è dotata di indicatori non coerenti con questo obiettivo e continua a confondere nei suoi calcoli crisi, appunto, ed efficienza energetica. Ne parliamo con Tommaso Franci dell'associazione Amici della Terra, che domani e dopodomani sarà al centro della sesta conferenza nazionale sull'efficienza energetica che si terrà a Roma, per cui per chi fosse interessato ai temi di cui parleremo tra poco, insomma, sapete dove potete andare ad approfondirli. Buonasera Franci. Buonasera a tutti. Allora, senta, intanto ci ricorda quali sono attualmente gli obiettivi di efficienza energetica che si è data l'Europa e anche come appunto vengono misurati? Sì, per il 2020 l'obiettivo è di una riduzione dei consumi del 20% rispetto a uno scenario di riferimento ormai molto datato che risale al 2007, quando non c'era neanche la crisi, e recentemente questo obiettivo sarebbe stato portato al 27% per il 2030, mentre la riduzione dei gas serra si misura invece rispetto al livello del 1990. Quindi già c'è una grossa confusione, però l'aspetto più grave è che la riduzione dei consumi di energia da sola non necessariamente esprime efficienza energetica, può invece dipendere, come soprattutto negli ultimi anni dipende dalla crisi per i motivi che tu hai ricordato. Basta pensare che nel 2013, nel 2014 ogni anno c'è stata una riduzione del 3% all'anno. Che è una cosa mostruosa, eh. Ecco, questo calo praticamente fa sì che già nel 2013 avessimo raggiunto questo meno 20%. E addirittura nel 2014 dovremmo essere intorno al meno 31%. Ecco, quindi bisogna calcolare questa efficienza energetica in un altro modo. Qual è la vostra proposta? Allora, è una proposta che tra l'altro è prevista anche dalla direttiva, ma in una forma facoltativa, insomma, che è quella di utilizzare l'intensità energetica. Okay. Cosa vuol dire intensità? Che non l'avete inventato voi, appunto, come parametro, no, è ben noto. Sì. Un parametro più che noto misura la quantità di energia consumata per unità di prodotto o per unità di valore della produzione. Cioè io creo un euro di ricchezza, quanta energia ho consumato per creare questo euro di ricchezza? Più questo indicatore si riduce, quindi minore è la quantità di energia che utilizzo per produrre la stessa cosa, più aumenta diciamo l'efficienza e si riduce l'intensità energetica. E naturalmente questo indicatore è depurato appunto per sua natura, no? Diciamo, questo indicatore poi richiede ulteriori diciamo affinamenti, soprattutto quando si entra nei vari settori, però già sostanzialmente esclude una grossa parte diciamo dell'equivoco. Alla luce di un indicatore corretto, guardando anche a sistemi di incentivazione esistenti, quali sono quelli che vanno nella direzione giusta? Sicuramente il meccanismo dei certificati bianchi premia le tecnologie che garantiscono dei risparmi aggiuntivi, questo è un meccanismo già in quella direzione. Potrebbero essere introdotti dei meccanismi come una carbon tax collegata all'intensità di carbonio dei prodotti e di fatto anche all'intensità energetica, che potrebbe aiutare anche rispetto a carbon leakage, cioè che delocalizziamo delle produzioni, poi reimportiamo questi prodotti che si portano dietro delle forti emissioni di CO2, potendo tassare la CO2 legata a queste produzioni, potremmo invece premiare l'efficienza energetica e ambientale di tante attività che sono in Europa e in Italia. E magari non in Cina, per esatto. Concludere il ragionamento. Grazie Tommaso Franci. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.